Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, una volta tanto possiamo aprire il programma con delle borse in netto recupero, speriamo che duri. Comunque più 2,8% Milano, più 2,3% Parigi e anche Francoforte, più 2,6% Londra, e in recupero anche l'euro che ha quota 1,2640 nei confronti del dollaro. Molto bene oggi alcuni titoli, soprattutto quelli che più avevano ceduto, non necessariamente i bancari. Perché lo dico? Perché penso ai Italcementi più 4,4%, Geox più 4,3%, anche Exor più 4%, Saipem più 4%, Telecom Italia più 3,70% e ancora Tenaris più 3,5%. Bene, dicevo, questi titoli, bene anche alcuni assicurativi, soprattutto Fondiaria 6 più 5,5%, Mediolanum, che è Risparmio Gestito, in realtà più 4,5%, e ancora sui bancari Popolare di Milano più 4%, Ubibanca più 3,80%, Mediobanca più 3,6%, Azimut più 3,6%, Intesa San Paolo più 3,5%. Poi c'è Tenaris più 3,4% come CIR, Banco Popolare più 3,3%, Autogrill più 3,3%, Prismian più 3,2%, Parmalat più 3,1% come Impregilo, il 3% lo guadagna Unicredito, ma anche Buzzi, Unicem, il 2,6% rialzo di Fiat e di Bulgari, il 2,5% quello di Enel e del Monte dei Paschi, il 2,3% rialzo poi di A2A di Campari, il 2,1% quello di Lottomatica, il 2% quello di Eni e di Ansaldo STS come quello di Luxottica. 1,5% guadagna Snam Rete Gas, l'1,4 Terna. Praticamente il titolo più debole è Steam Microelectronics, più 0,70%. In apertura parleremo del mondo del commercio, oggi l'assemblea annuale della Confesercenti, il timore dei piccoli esercizi commerciali di sparire di fronte poi all'impatto e con l'impatto dei grandi centri commerciali, e ancora il timore che la riforma dell'articolo 41 liberalizzando porti poi a una difficoltà a sopravvivere da parte dei piccoli commercianti, e questo tratteremo in apertura. Oltre che di federalismo parleremo, perché su questo ci sono un po' di da un lato dichiarazioni, ma anche così titubanze, incertezze nel rapporto tra le regioni e il governo. Ne parleremo adesso in apertura, non si capisce ancora quando vi sarà l'incontro e se e come vi sarà l'incontro delle regioni. E poi, come sempre, torneremo su un tema che ieri non siamo riusciti a toccare fino in fondo, mi riferisco al rapporto Mediobanca sulle multinazionali, chi va bene per quale settore, e la lotta alla contraffazione. Domani Confindustria, assieme al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero degli Esteri e alla Commissione Europea, lancerà la grande giornata contro la contraffazione, per la lotta alla contraffazione, che si svolgerà in siti diversi, per cui da un lato a Roma, poi a Venezia ed Arezzo, e parleremo di contraffazione, che significa un danno di 7 miliardi e mezzo all'industria italiana, 5 miliardi di mancate entrate fiscali, e poi tutto il danno della contraffazione a livello internazionale, calcolabile intorno ai 30 miliardi di euro solo per quello che riguarda il settore agroalimentare. Sono cifre impressionanti, alla luce anche di alcuni sequestri operati dalla Guardia di Finanza. Allora, dicevamo 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Quotazione in ribasso nel petrolio, meno 1,5% vicino ai $71 al barile in corrispondenza. Questa è una notizia abbastanza anomala: quando l'euro si rafforza e le borse vanno bene, anche il petrolio tende a salire. Oggi invece le cose vanno diversamente. Il governo britannico, invece, sulla marea nera del Golfo del Messico, sta discutendo addirittura di un eventuale piano per salvare la British Petroleum. Ora voi capite che è una compagnia enorme come la British Petroleum, sarebbe come se il governo italiano dovesse fare un piano per salvare l'Eni, insomma significa tirar fuori tanti miliardi. Si calcola che fino ad ora il costo per British Petroleum sia arrivato a 3 miliardi e 700 milioni di dollari, ma soprattutto dal giorno dell'incidente la British Petroleum ha perso in borsa il 50% del suo valore. E ieri, tra l'altro, il Fondo Sovrano della Libia, sempre i fondi sovrani libici arrivano a un certo momento, ha manifestato un interesse per una quota fino al 10% del colosso petrolifero britannico, per un esborso di circa 7 miliardi di euro. E vanno bene le borse, vanno bene i mercati, però si sono moltiplicati negli ultimi giorni i segnali di un rallentamento di quella che è obiettivamente un'impetuosa crescita cinese, e i mercati erano molto preoccupati su questo. E allora oggi il nostro gufo viene spolverato. Perché? Perché ha messo un carico da 90 Kenneth Rogoff. Kenneth Rogoff è ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Tra l'altro io non ricordo, negli anni in cui Rogoff era capo economista del Fondo Monetario Internazionale, tutti questi allarmi nei confronti della bolla immobiliare americana, dei mutui subprime, dei prodotti derivati, dell'eccesso di finanza, del rischio su vari paesi. Insomma, vabbè, non lo ricordo io ed è colpa mia. Attualmente insegna a Harvard. Sentite che cosa ha detto a proposito di come andrà la Cina e soprattutto di come andrà il mercato immobiliare cinese. Property prices and leverage are probably the two best indicators. I prezzi immobiliari e la leva sul debito sono probabilmente i due indicatori più attendibili che attestano l'esistenza di un problema. Soprattutto l'esplosione dei prezzi immobiliari denota che c'è qualcosa che sta bollendo. Ciò non significa che succederà nel prossimo futuro, nel giro di pochissimi anni. Ma senza dubbio il mercato immobiliare cinese sta iniziando a collassare e ciò rischia di colpire il sistema bancario. Gli strumenti per fare da contrasto esistono, ma non sarà per niente facile. E non se ne abbia male neanche Kenneth Rogoff, ma appunto, intanto qualche avvertimento poteva lanciarlo quando era capo economista del Fondo Monetario, e poi insomma dire non escludo l'ipotesi di un collasso del mercato immobiliare cinese che trascinerebbe con sé tutto, voglio dire, certe cose un po' più di prudenza, no? O agli elementi, oppure stai gufando. Andiamo avanti, parleremo anche di Abertis, perché il colosso Abertis, qualcuno di voi lo ricorderanno perché ci fu un avvicinamento molto forte tra Abertis e la società Autostrade, fu poi bloccato soprattutto per una polemica con l'allora ministro dei trasporti Di Pietro per quello che riguardava i soldi che Autostrade aveva incassato, i pedaggi, quello che doveva tornare, ma insomma Abertis ha grosse difficoltà finanziarie, e sia ACS che Criteria Caixa Corp hanno confermato di essere in trattative con il fondo CVC per esplorare la possibilità di un ingresso nel capitale del gruppo autostradale spagnolo, con il possibile lancio di un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni di Abertis. E chi guida le file del riassetto azionario di Abertis, che ripeto è la società Autostrade spagnola, quindi un grossissimo gruppo, è Mediobanca, perché guida una coorta di 14 banche in cui Caixa resterà primo socio dell'azienda iberica. Al termine dell'operazione infatti la Caixa dovrebbe restare primo socio con una partecipazione di poco superiore all'attuale 28,9%, e poi seguirà il CVC e poi ACS, che si diluirà dal 25% al 20%. E Mediobanca è la capofila anche del finanziamento tra i 6 e i 7 miliardi di euro di cui ha bisogno il gruppo spagnolo, che verrà garantito da 14 banche. Andiamo rapidi per quello che riguarda la vicenda delle telecomunicazioni. Per quello che riguarda il federalismo ne parliamo più avanti, abbiamo uno spazio apposito sul federalismo alle 18, ma i prezzi delle telecomunicazioni meno 31% in 15 anni, lo ha riferito oggi il presidente dell'autorità del settore delle comunicazioni Corrado Calabro, ricordando che comunque c'è ancora spazio per un calo nei prezzi, In effetti devo dire che la liberalizzazione della telefonia ha funzionato molto sul fronte dei prezzi, che sono obiettivamente calati. Dice infatti Calabro, attenzione, nonostante le difficoltà il settore ha tenuto, i ricavi l'anno scorso sono calati solo del 3,3% a 43,7 miliardi di euro, e poi ha lanciato un allarme, ha detto attenzione, in assenza di interventi, con l'attuale tasso di diffusione degli smartphones, i telefoni che navigano su internet, quelli appunto che non fanno solo da telefono, la nostra rete mobile rischia il collasso. Calabro ha ricordato che l'AGCOM sta portando avanti una politica per liberalizzare in tempi brevi le frequenze radio. Prima, dovrebbero essere rese disponibili prima del 2015 circa 300 MHz da mettere all'asta per la banda larga. Franco Bernabei, il numero uno di Telecom, ha negato che vi sia alcun rischio di un collasso della rete, ma invece Paolo Bertoluzzo, amministratore legato di Vodafone Italia, ha detto beh, l'osservazione di Calabro è un'osservazione vera. La manovra, il voto finale lo si è preso poco fa al Senato, vi sarà mercoledì 14 luglio, l'ho detto poco fa, infatti il capogruppo dell'Italia dei Valori a Palazzo Madama Felice Belisario, ma il portavoce del, o meglio, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Paolo Bonaiuti ha detto non abbiamo ancora fissato alcun incontro con le regioni, siamo aperti a qualche modifica, ma se non si superano i saldi già stabiliti, cioè 24,9 miliardi di euro. E il relatore della manovra Antonio Azzolini ha detto sulle regioni approveremo oggi l'emendamento sul patto di stabilità, non cambia niente. E si sono arrabbiate le regioni perché hanno detto è grave il comportamento del governo italiano, non potremmo che considerare gravissimo e inaccettabile il diniego su una richiesta di avere un incontro con il Presidente del Consiglio, con i ministri interessati, l'hanno detto i vari Sergio Chiamparino per l'ANCI, per i comuni italiani, Vasco Errani per la conferenza delle regioni, Giuseppe Castiglione per le province italiane. E domani conferenza straordinaria delle regioni, e mentre l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani è già in riunione straordinaria. Verrà invece cancellata dalla finanziaria la norma sulle invalidità, si tornerà al 74%, perché un emendamento aveva alzato dal 74 all'85% la soglia di invalidità per accedere alla pensione e fissato requisiti più stringenti. Si torna alla vecchia soglia per l'invalidità. I grossisti, nel frattempo, delle farmacie aderenti all'Associazione dei Distributori Farmaceutici sospenderanno da domani i servizi di consegna di medicinali alle farmacie, perché chiedono di essere urgentemente convocati dalla Commissione Bilancio del Senato per presentare una soluzione alternativa rispetto al taglio sproporzionato, dicono loro, e mal ripartito dei margini commerciali previsto dalla manovra anticrisi. Primo tema, i commercianti e i timori di diventare dei panda, una categoria rara, schiacciati dal peso, secondo loro sempre più incontenibile, delle grandi catene commerciali, dei grandi centri commerciali. 349-238-6666 per i vostri SMS. Assemblea annuale della Confesercenti, quindi, che vuol dire 350.000 imprese nel commercio, turismo, servizi, artigianato, piccole e medie imprese dell'industria, con oltre un milione di persone occupate. E allora siamo in collegamento col presidente della Confcommercio, Marco Venturi, buonasera. Della Confesercenti, Marco Venturi, buonasera. Buonasera. Dicevamo appunto 350.000 imprese associate del commercio, turismo, servizi, artigianato, oltre un milione di persone occupate. Voi avete chiesto oggi alcune cose al governo, e sentiremo anche la risposta del ministro Sacconi. Nel caso specifico avete chiesto di ridurre la pressione fiscale, di portarla dal 43,2, se ho ben capito, al 40% in 3 anni, ma soprattutto avete lamentato che la liberalizzazione fatta per aprire nuove attività con questi ritmi di apertura delle grandi strutture commerciali nel giro di 5 anni, se ho ben capito, ci troveremo con 5.000 comuni e tantissimi quartieri senza negozi. Non è un po' troppo allarmistica? No, assolutamente. Assolutamente no, perché c'è già una tendenza, diciamo, alla riduzione della presenza delle piccole e medie attività commerciali all'interno dei centri urbani, proprio per, diciamo, l'apertura continua di grandi centri commerciali, di grandi strutture commerciali. Quindi il nostro è un allarme che si basa su una tendenza già in atto, quindi c'è bisogno di non esasperarla e quindi trovarci realmente senza negozi, quindi senza servizio di vicinato. In quanto alle altre richieste, chiaramente noi ci siamo mossi, ci rendiamo conto di che cosa vuol dire passare dal 43,2 al 40% della pressione fiscale, però ci siamo mossi ragionando di taglio alle spese, di eliminazione delle province, gli sprechi, e quindi l'abbiamo inserito all'interno di queste 5 mosse, di cui la prima deve essere quella di portare il debito sotto il 100%. Siamo insieme alla Grecia i più alti in Europa per debito pubblico, quindi c'è bisogno chiaramente di trovare un equilibrio complessivo, ma che un equilibrio virtuoso, non quello che stiamo facendo adesso, indebitandoci fino al collo, quindi un'inversione di tendenza più complessiva. Sì, infatti avete chiesto di ridurre la spesa per il pubblico impiego, che assorbe l'11,5% del PIL, e evitare lo scaricabarile. Su questo sentiamo il ministro Sacconi sulla manovra e sui saldi della manovra, visto che è ancora in discussione, perché su questo al microfono la nostra Chiara Grandi, se il ministro ha voluto precisare quanto debba essere mantenuta integra. Valuteremo. Di sicuro la manovra deve essere mantenuta integra nei suoi saldi di bilancio, perché l'obiettivo è quello di continuare un percorso di stabilità che abbiamo iniziato già dai primi giorni di governo. Allora, abbiamo sentito il ministro Sacconi sulla parte che riguarda la manovra mantenuta integra nei saldi. Mi interessa molto, presidente Venturi, questa parte che riguarda le liberalizzazioni, perché noi da sempre le liberalizzazioni in questo programma le abbiamo appoggiate e sposate. Adesso arriveremo anche alla vostra richiesta al governo di frenare sul superamento dell'articolo 41 in modo da garantire maggiori liberalizzazioni. Però mi faccia capire una cosa, con tutto rispetto per i piccoli esercizi commerciali, ma è chiaro che se il piccolo esercizio commerciale ha un senso perché fornisce un'area, una rete urbana, continua a vivere e poi uno andrà a fare la grande spesa, uso un po' di esempi forse banali, la spesa grande, nel grandi centri, e sulla spesa quotidiana si rivolgerà all'esercizio più vicino. Se invece è in sovrapposizione con grandi strutture, magari offre un po' di tutto senza essersi specializzato, senza avere una sua nicchia di prodotti, una sua nicchia di servizi, cioè senza dare qualcosa in più, beh, mi scusi, ma perché devo andare a fare la spesa in 7 negozi diversi quando accanto a un grande supermercato? Cioè, questo è un po' antistorico, siamo un paese che ha ancora il rapporto più alto tra esercizi commerciali e abitanti. Ma infatti lei va a fare la spesa dove ritiene più opportuno di farla. Noi stiamo ponendo un altro problema, che è quello di non desertificare i centri urbani, perché senza le attività commerciali, senza l'artigianato, eccetera, i centri urbani muoiono, insomma, ecco, diventano dei dormitori. Questo dobbiamo evitarlo in tutti i modi. Non a caso noi abbiamo lanciato qualche anno fa, proprio con un progetto anche finanziato dall'Unione Europea, una serie di centri commerciali naturali che hanno preso piede in Italia, cioè quella diffusione di zone commerciali, di piazze, di vie, che sono diventati come dei centri commerciali a cielo aperto, e quindi questo dà un senso anche, cioè c'è il problema della spesa, tenga conto che il settore alimentare ormai elevato lo specializzato, elevato gli ambulanti dell'ortofrutto, ormai è già sparito, quindi non si pone più il problema che diceva lei, ci sono pochi negozi specializzati che offrono un servizio migliore, quindi lei va da quelli perché le offrono delle cose, diciamo, migliori. Però c'è da salvare questa vita sociale all'interno dei centri urbani, che garantiscono esattamente i negozi, non certo i centri commerciali che stanno magari a 10 km Io sono d'accordissimo con lei, perché tutto vogliamo vedere tranne che i centri storici, appunto, in cui sia difficile comprare il pane o avere qualunque altro tipo di esercizio commerciale. Ma mi chiedevo, ma non dovrebbe essere una logica di mercato? Cioè, voglio dire, se il centro storico è abitato, ci sarà chi andrà a... Perché lei farebbe costruire in qualunque angolo della terra, delle città, delle campagne, di qualunque zona. No, ci sono dei piani regolatori, insomma, di sviluppo. C'è sempre, mi pare, una regola che evita... diciamo la giungla da tutti no ma non dicevo la giungla, però dico se il centro commerciale serve un centro storico, di solito se c'è richiesta, se c'è domanda, quello vive, resta, avrà prezzi, certo, ma infatti ci sono alcuni, il problema vero che si pone nel nostro paese è quello dell'alimentare, quindi di una popolazione che invecchia sempre di più e si rischia di non trovarsi più il servizio di vicinato. Questo credo che sia un problema non mio, è un problema nostro, insomma, delle città, della gente, delle famiglie. Quindi, insomma, noi diciamo che non devono esistere, ce ne sono pure troppi, questo è il punto. Quindi chiediamo di creare le condizioni perché anche le piccole attività possano resistere, sopravvivere, dare un servizio di vicinato che riteniamo indispensabile anche per la qualità della vita. Ecco, un altro allarme che voi avete lanciato, poi arriviamo, anzi, chiudiamo il capitolo liberalizzazione con la risposta che vi ha dato il ministro Sacconi sull'articolo 41, poi vorrei capire con lei perché, che cosa temete da questa riforma dell'articolo 41. Sentiamo Sacconi, in quale tua attenzione che con la modifica dell'articolo 41 della Costituzione non... e si arriverà alla liberalizzazione selvaggia. Il ministro del lavoro. Quando si dice, per esempio, a proposito dell'impresa di modificare lo stesso articolo 41 della Carta Costituzionale, non comporta una sorta di liberalizzazione selvaggia, ma significa, al contrario, la possibilità per le imprese di operare all'interno delle regole che in ogni caso non possono mancare, soprattutto per quanto riguarda i mercati che se fossero sregolati non sarebbero tali, si comporta innanzitutto una esaltazione del concetto dell'autocertificazione. Questa è l'idea della riforma dell'articolo 41. L'impresa che nasce, l'impresa che si sviluppa, opera all'interno delle regole, ma non diventa prigioniera di lunghi percorsi, di lunghi e faticosi percorsi burocratici, perché il controllo dovrebbe realizzarsi a posteriori ed essa dovrebbe poter procedere con tempestività sulla base di attente autocertificazioni. Ma allora, Presidente Venturi, se è così, che cosa temete voi della modifica dell'articolo 41? No, io non ho detto che non sono d'accordo, io ho detto che sì alle semplificazioni per le aperture delle imprese. Ripeto il discorso di prima, ho detto no però al via libera alla grande distribuzione di fare come gli pare, senza tenere conto della necessità di un minimo di programmazione per far sopravvivere il servizio di vicinato. Questo è il problema che ho posto, non quello del no, diciamo, all'articolo 41. Altro messaggio che è arrivato forte e chiaro, mi sembra di capire, è quello sull'obiettivo zero pizzo. Devo dire che qui la strada, da sempre lo riconosciamo, aperta dalla Confindustria siciliana, Ivano Lobello, che spella da Confindustria chi pagava, gli industriali che pagavano il pizzo, sta diventando una best practice, un modello da seguire. E voi avete detto, se ho ben capito, l'usura è tornata ad essere un'emergenza nazionale. I tre obiettivi quali sono? Ma guardi, intanto diciamo è tornata, noi ricordo che Confesercenti già negli anni, inizio anni 90, organizzò il treno contro l'usura. E quindi una nostra azione forte, continua, che c'è da tempo, perché le piccole imprese sono quelle che purtroppo nei momenti di crisi in particolare finiscono nelle grinfie degli usurai, quindi c'è bisogno di una reazione molto determinata. Abbiamo fatto per esempio l'accordo con le banche, con la proroga della moratoria dei debiti delle imprese nei confronti delle banche, quindi abbiamo dato respiro in un periodo di crisi. Questo è importantissimo, perché altrimenti rischiamo di finire nelle mani degli usurai, quindi c'è una preoccupazione molto forte da questo punto di vista, ma anche su, per quello che riguarda il pizzo, molto diffuso purtroppo nel Mezzogiorno. È una vecchia battaglia di Confesercenti che risale all'inizio degli anni 90, quindi ritengo che purtroppo ancora stiamo a ripeterlo nel 2010, stiamo ripetendo le cose che dicevamo all'inizio degli anni 90, quindi è un problema che per fortuna vede mano a mano una reazione maggiore degli imprenditori, però diciamo il problema esiste, è bello pesante in alcune regioni e condiziona obiettivamente l'economia. E poi si è passati appunto da 140.000 stimati vittime dell'usura a 200.000, il dato obiettivamente è di quelli che impressionano, anche perché appunto il giro d'affari che finisce nelle tasche degli usurai di circa 20 miliardi di euro. Vorrei parlare poi con lei di consumi, di come vanno i consumi dalla vostra prospettiva, dopo il metro, la pubblicità, poi la borsa che ha chiuso molto bene, più 2, non sui massimi, ma più 2,70%, Milano in evidenza soprattutto Fondiere Assai più 5,7%, Geox e Mediolanum più 4,7%, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora concludiamo l'approfondimento, darò anche qualche risposta poi agli ascoltatori sugli esercizi commerciali, forse non ci siamo capiti. Comunque l'approfondimento con il presidente della Confesercenti Marco Venturi sul federalismo. Allora, fermo restando l'arrabbiatura delle regioni e dei comuni perché non c'è nessun incontro convocato con il governo, ma insomma il vostro appello cos'è? Che sia un federalismo che porti realmente un taglio di costi o che sia responsabile nel senso della tenuta sociale? Ma certo, un federalismo che colga l'esigenza di valorizzare le potenzialità locali, perché questo è fondamentale anche per la crescita, ma ovviamente all'interno di un contesto più generale, quindi con una serie di regole comuni che devono valere a tutti i livelli, anche perché anche le piccole imprese o le medie imprese hanno anche una mobilità anche di tipo territoriale, quindi bisogna che ci sia però quell'elemento di fondo che rappresenta lo Stato, comunque lo Stato unitario, uno Stato forte che però si sa decentrare, si sa articolare diciamo nelle responsabilità anche di tipo territoriale. Allora sentiamo il ministro Sacconi sul federalismo e poi l'ultima domanda che ho per lei riguarda invece come vanno i consumi, perché al di là delle grandi strategie noi abbiamo avuto dei dati abbastanza preoccupanti in questi ultimi giorni, l'Istat sui consumi degli italiani in frenata per la prima volta in termini reali da 10 anni a questa parte, però sul federalismo ministro Sacconi. Le regioni non potranno che riflettere su se stesse, anche le più performanti che hanno margini significativi da questo punto di vista, come gli enti locali, attraverso quel decreto che riguarderà i loro costi standard, dovranno uscire da quella antica, da quella purtroppo lunghissima vicenda che li ha viziati dalla fine degli anni 70, quando furono prodotti i decreti stammati, e con essi non solo si disse chi ha avuto e chi ha dato, ma purtroppo il passato non veniva scordato, ma ogni anno riprodotto da trasferimenti fondati sulla spesa storica, per cui i virtuosi furono puniti e i viziosi furono premiati, anzi sono premiati ancora nel momento in cui stiamo parlando. Il passaggio, il salto ai costi standard, ad una distribuzione corretta delle risorse, rappresenta la fine di questo lungo vizio. Quindi stiamo attraversando il guado. No, è innegabile che insomma finché la spesa sarà fatta sulla spesa storica e quindi chi ha sforato i tetti continuerà a sforarli, non sui costi standard, ma questo abbiamo detto moltissime volte, vale soprattutto per la sanità, non si risolverà il problema degli sprechi, dei costi alti degli enti locali e dell'inefficienza soprattutto di molti di essi nel sud. Un'ultima domanda al Presidente Venturi che riguarda invece proprio come vanno i consumi, visto che voi rappresentate appunto 1 milione di associati e 352.000 imprese. Insomma, questa ripresa un po' la vedete voi o ha ragione l'Istat nel fotografare però un'Italia del 2009 ormai, quella del calo appunto dell'1,7% dei consumi, il più alto da 10 anni a questa parte? Ma Guardi, i consumi, abbiamo avuto un periodo molto difficile, molto pesante. È chiaro che man mano che l'economia lancia qualche segnale di ripresa, diciamo, tendiamo ad assestarci, però dai dati che abbiamo dato, anche delle chiusure, quindi parlo dei saldi negativi delle imprese commerciali, insomma, le cose continuano a non andare bene. Purtroppo le previsioni di ripresa non sono immediate e quindi noi temiamo che, insomma, ancora avremo un periodo molto difficile sul piano dei consumi. Beh, speriamo che passi il più in fretta possibile. Grazie comunque, in bocca al lupo a tutti gli associati in Conferenza dei Centri, come sempre facciamo con tutti i vari soggetti che intervistiamo. In bocca al lupo quindi a Marco Venturi, che di Conferenza dei Centri è presidente. Grazie, arrivederci. Allora, adesso la borsa, ci sono vari messaggi, ma sono alcuni molto molto irati, che definiscono chi conduce questo programma un servo a favore delle multinazionali che non rispetta il tessuto sociale dei negozi delle periferie. E tra l'altro farei anche schifo perché non penserei agli anziani che non possono andare nei centri commerciali. Forse ci siamo capiti male, si è solo detto: là dove c'è un grande centro commerciale o il negoziante offre qualcos'altro, oppure è chiaro che se ce l'ha accanto tenderà a sparire. Ma se nei centri storici non ci sono grandi esercizi commerciali, non si capisce perché devono sparire i vari esercizi: alimentarista, panettiere, negozio di vestiti. Cioè, il perché non mi è chiaro. Laddove tu hai accanto una grande struttura, è chiaro che probabilmente quella lì ti fa concorrenza, però è tutto un problema di mercato. Cioè, attenzione, in Italia c'è un rapporto che è quasi doppio rispetto alla media europea di esercizi commerciali per abitante. Siamo sicuri che sia così efficace? Ha senso avere ancora una struttura che è di 20-30 anni fa, o ha senso avere degli esercizi commerciali che vadano anche in concorrenza tra di loro e diano servizi aggiuntivi? Questa era la domanda. Comunque, la borsa adesso. Allora, per quello che riguarda l'America, volete sapere, dopo la chiusura di ieri più 1,4%, buona la chiusura anche se sotto i massimi, più 2,7% Parigi, più 2,1% Francoforte, più 2,5% Londra, l'1,4% rialzo del Dow Jones, euro su dollaro a 1,2643. Ancora per quello che riguarda Milano, più 2,70%, molto bene Fondiaria Assai, più 5,7%, Geox 4,7% come Mediolanum, il 4,2% la guadagna Talcementi, il 4% la Popolare di Milano e Ubibanca, ma anche Mediobanca, il 3,80% Saipem e Azimut, il 3,70% Telecom e Tenaris, ma anche Autogrill ed Exor, il 3,6% il rialzo di tra il 3,6 e il 3,5 di Intesa San Paolo e del Banco Popolare. Come sempre, i colleghi di Radio Cori sulle 24 ore a commentare la giornata di borsa. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Il motivo di questo rialzo forte in tutta Europa, oserei dire. Sì, esatto, in tutta Europa, anche Wall Street sta andando bene, si tratta di ricoperture, un rimbalzo che per adesso, almeno dagli esperti, viene definito assolutamente tecnico. Dopo i ribassi delle ultime sedute si è andati a caccia di buoni affari, alcuni titoli sono scivolati a livelli molto compressi, così che sono appunto stati considerati interessanti da numerosi investitori. Peraltro si è andati a comprare soprattutto le azioni che proprio nei giorni precedenti avevano perso maggiormente terreno, come ad esempio le banche, le assicurazioni, come hai già detto tu. E i costruttori, visto che va molto bene oggi, vanno molto bene non solo i Talcementi più 4,1%, ma anche Tenaris più 3,6% e anche Buzzi in più 2,6%. Mi sembra una giornata classica da rimbalzo, o no? Esatto. Cioè, sale tutto in maniera un po' indiscriminata. Esatto, si tratta di un rimbalzo tecnico, poi ci sono dei titoli che magari si sono distinti maggiormente, abbiamo detto in primis le banche, che peraltro erano quelle che nei giorni scorsi, anche sul timore che gli stress test europei diano diciamo sorprese negative, erano scivolate con maggiore convinzione. Poi il settore assicurativo, Fondiaria Assai ad esempio ha messo a segno un guadagno di oltre il 5%, più 5,77% sul finale. In questo caso ci sono due fattori: primis il fatto che il mercato è tornato a scommettere sul settore assicurativo, in particolare sulle assicurazioni esposte al ramo danni, al ramo certo. dell'auto, che dopo due anni di difficoltà dovrebbe tornare a macinare guadagni. E poi su Fondiaria Sai c'è anche l'aspetto speculativo, la società sta portando avanti un piano di cessione di alcuni asset come Liguria, Sasam e una serie di asset di real estate, e quindi appunto nell'attesa di novità il titolo ha messo a segno un rialzo che è più consistente rispetto a quello dei concorrenti come ad esempio Unipol, che ha fatto più 1,39%, ma della stessa Generali più 3,34%. Altri titoli dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, tra i titoli, diciamo bene tutto, bene risparmio gestito, è salita anche molto Enel. Qui c'è una notizia, poi ritracciata a 2,1%, c'è una notizia che riguarda i conti di Enel, scusate il gioco di parole, anticipati dall'amministratore delegato Fulvio Conti. Esatto, come hai detto tu, in verità durante della seduta le azioni di Enel erano arrivate a guadagnare oltre il 3%, poi hanno chiuso più 2,11%. Diciamo i titoli hanno reagito soprattutto dopo le parole dell'amministratore delegato, parole con le quali il manager ha detto che l'azienda sta lavorando per battere i target, gli obiettivi che si è data per fine anno. Ovviamente una notizia che è sempre accolta con favore dal mercato. I migliori e peggiori in assoluto, oggi Stefanel più 53%, che è successo? Sì, nel caso di Stefanel è il secondo giorno di aumento di capitale, un aumento di capitale da 50 milioni di euro. Ieri i titoli nel primo giorno appunto dell'operazione non erano riusciti a entrare in contrattazione segnando un progresso teorico del 50% che invece hanno effettuato oggi. L'aumento di capitale è un'operazione che servirà per rilanciare l'azienda, soprattutto per svecchiare il marchio e potenziare la rete di negozi, secondo un piano industriale di appunto rilancio che è stato presentato ieri dalla società. Va bene, migliori sempre tra i migliori anche Monti Accessori più 16%, Datalogic più 7, Bastoggi più 6,4, Societe Generale più 6,2 e il Crédit Agricole più 5,9. Tra i peggiori in assoluto Seat Pagine Gialle meno 6%, De'Longhi meno 5,60 e poi poco altro, PMS meno 3,23%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora, qualche risposta ancora sul mondo del commercio. Ripeto, al di là della mia ottusità o del fatto che sia schiavo delle multinazionali o dei poteri politici accentratori, che non so che cosa voglia dire, attenzione, perché potremmo parlare molto degli esercizi commerciali, nessuno vuole distruggere il tessuto, le periferie. Se c'è mercato, è ovvio che l'esercizio commerciale vive, resta e ha un suo mercato, vuoi perché è vicino, vuoi perché offre un servizio diverso. Le multinazionali che rischiano di far cartello, questo è un rischio, però esistono anche le autorità di vigilanza. Un altro aspetto che molti di voi mettono in luce invece è che sono aumentati in maniera fortissima gli affitti nei centri storici e quindi i negozi non ci stanno dentro. Questo è un tema corretto, ma scusatemi, il grande gruppo della grande distribuzione cosa c'entra con l'aumento degli affitti? Cioè lì il problema è che nei centri storici, se i prezzi continuano a correre così, se ne va l'esercizio commerciale, ma non perché c'ha accanto la grande catena e non ce l'ha neanche accanto, ma perché non riesce più a starci dentro con i prezzi dell'affitto. Ma dopodiché noi come cittadini cosa possiamo farci? Pagare di più i beni perché l'affitto è più alto? Non lo so. Comunque, visto che sono schiavo delle multinazionali, ecco a voi l'approfondimento proprio sulle multinazionali. Perché ieri è uscito il rapporto Mediobanca, in tre mesi il fatturato delle multinazionali a livello mondiale è salito del 22%, buona notizia per il mondo, cattiva notizia per noi, perché praticamente le nostre multinazionali nei vari settori sono cresciute molto meno rispetto alle stesse multinazionali degli stessi settori di altri paesi. Allora Valentina Furlanetto ha chiesto a Gabriele Barbaresco, che è il capo ufficio studi di Mediobanca, le novità dello studio e il perché anche di questa differenza tra l'Italia e il resto del mondo. Per quello che riguarda le tendenze di più lungo periodo, comunque le caratteristiche di queste multinazionali, un primo elemento importante è che ormai sono sempre più in un qualche modo dominate dalla presenza dell'industria petrolifera. L'industria petrolifera rappresenta, quando si vanno a vedere queste grandi imprese, delle quote molto importanti del fatturato che queste imprese fanno nei rispettivi paesi. Ci può dare un'indicazione? In Europa noi valutiamo che e anche nel Nord America circa un terzo del fatturato realizzato dalle multinazionali sia riconducibile all'industria del petrolio, a società quindi petrolifere o comunque energetiche. Scendendo nel dettaglio, dato questo, diciamo, questo quadro quindi che vede questa grande presenza dell'industria petrolifera e non era così forte questo peso 10 anni fa, scendendo nel dettaglio poi dei singoli paesi europei, noi abbiamo una situazione che vede nel Regno Unito una dominanza dell'industria petrolifera tale per cui a livello di multinazionali questa rappresenta circa l'80% del fatturato che viene realizzato nel Regno Unito. Lì hanno la sede, diciamo, le grosse major del petrolio, la Shell, la British Petroleum. Una situazione in Italia in cui comunque a livello di multinazionali il petrolio rappresenta il 40% con l'Eni del fatturato complessivamente realizzato e una presenza ancora molto importante tra il 20 e il 30% in Francia e nei paesi scandinavi. La Germania invece è la nazione a livello di multinazionali che è più fortemente radicata sulla manifattura. Manca completamente l'industria petrolifera e diciamo c'è un 37% del fatturato tedesco che è rappresentato a livello sempre di multinazionali da industria dei mezzi di trasporto, quindi sostanzialmente auto. Questo 37% poi si aggiunge un 20% circa di industria meccanica. Al di là dei settori, comunque, l'aumento del 22% del fatturato nel primo trimestre 2010 rispetto allo stesso periodo del 2009 è positivo, quindi, per le multinazionali, per la grande industria mondiale. Però io devo segnalare una cosa importante, e cioè che l'anno 2009 si è chiuso di fatto con una caduta dei fatturati che è stata rilevante nell'ordine del 18%, 19% in America, 20% in Giappone. Questo rimbalzo quindi che voi vedete del 20% c'è stato, però deriva dal confronto col primo trimestre del 2009 che fu particolarmente negativo. Andando alle multinazionali italiane? Sono nel complesso meno patrimonializzate rispetto alle pari imprese, diciamo ai competitor europei e internazionali, e diciamo quel 20% di ripresa, che questo rimbalzo, diciamo, del fatturato che noi abbiamo visto in realtà è condiviso in maniera meno brillante, diciamo lo troviamo in maniera meno brillante nei conti delle multinazionali, cioè il rimbalzo del fatturato è italiano, quindi il rimbalzo del fatturato è meno evidente nei conti delle multinazionali italiane. Così il responsabile dell'ufficio studi di Mediobanca, Gabriele Barbaresco al microfono, la nostra Valentina Furlanetto. Molti messaggi ancora contro le cattive multinazionali, le catene commerciali, e invece i poveri piccoli sempre commercianti. Allora, io non amo il bianco e il nero, altri ascoltatori ricordano che mentre lo scontrino viene sempre dato al supermercato, non sempre avviene nell'esercizio commerciale piccolo. Vogliamo parlare anche di questo magari? Intanto il GR, poi la vicenda Bertis, un po' meno vittimismo in chi scrive, perché vabbè, ne parliamo dopo, il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, dopo una giornata di borsa buona, finalmente tutta buona, più 2,70%, l'abbiamo commentata nella prima ora del programma, ricordo molto bene Fondiaria SAI più 5,70%, ma anche Geox più 4,70% come Mediolanum, bene anche tutti i titoli legati alle costruzioni, Italcementi più 4,1%, bene i bancari, anche Telecom Italia più 3,7%. Vorrei adesso toccare un tema che riguarda anche il mercato, le banche, perché stiamo parlando di un gruppo è un gruppo spagnolo, si chiama Abertis ed è l'equivalente della società Autostrade in Italia, di Atlantia in Italia. 10 miliardi di euro di capitalizzazione, gestisce 1500 km di autostrade in Spagna e poi è presente anche in Portogallo, Argentina, Italia, Regno Unito, e ha appunto il 6,7% dell'Italian Atlantia, Autostrada per l'Italia. I primi azionisti sono a tuttora la Caixa 29% e ACS 25%, un gruppo che alcuni di voi ricorderanno perché nel 2006 vi fu una trattativa molto molto serrata, quasi giunta alla conclusione per la fusione con il gruppo Autostrade, poi bloccata anche dal Ministero delle Infrastrutture, dal governo, era il ministro Di Pietro. Però i temi adesso per quello che riguarda Abertis sono altri. 349-238-6666 per i vostri sms nel frattempo. Che cosa è successo infatti? È successo che il gruppo ha difficoltà, sta studiando un riassetto del suo azionariato e non è escluso nemmeno il lancio di un'OPA, di un'offerta pubblica di acquisto, che varrebbe quanto l'intera manovra finanziaria italiana messa in campo, cioè 25 miliardi di euro, 10 per la di capitalizzazione più 15 miliardi di indebitamento. Allora ci colleghiamo con Michele Calcaterra, corrispondente Sole 24 Ore da Madrid. Michele, buonasera. Buonasera a voi. Allora, perché ha bisogno di essere ricapitalizzata di fatto con l'ingresso di nuovi soci? Tra l'altro c'è una società veicolo e c'è anche il ruolo di Mediobanca molto attivo su questo. Però partiamo dalle difficoltà di Abertis. Ma le difficoltà di Abertis sono di vario tipo. La prima è quella di dare un azionariato stabile all'azienda, dato che i due principali azionisti, cioè la Caixa e ACS, se la prima ha sicuramente l'intenzione di rimanere dentro all'azienda catalana, ACS, che è guidata da Florentino Pérez, che tra l'altro è presidente anche del Real Madrid, ha altri obiettivi strategici, che è la conquista di Iberdrola, per cui c'è questo problema tra i soci. L'altro grande problema è come finanziare lo sviluppo di questa azienda, che sicuramente negli ultimi anni si è ingrandita, ingigantita, diversificata, però insomma è un po' al bivio e ha bisogno di un'iniezione di denaro per fare un nuovo salto. Questo è un po' il quadro ecco, generale. Se ho ben capito, Mediobanca sarebbe capofila nella società veicolo, ma anche nel prestito di 6 miliardi organizzato da Mediobanca. Mediobanca, tra l'altro, è azionista di Sintonia, della famiglia Benetton, che è controllante di Atlantia, e poi dentro Atlantia c'è Abertis, che ha il 6,7%, ma resterebbe della capofila anche appunto del finanziamento con 14 banche, ho capito bene Michele? Sì, le banche sono 14, compresa Mediobanca, si parla di un prestito sindacato tra i 6 e i 7 miliardi di euro, e sicuramente il ruolo di Mediobanca è centrale. Bisogna tenere conto che il presidente di Mediobanca qui in Spagna, Borja Prado, è molto amico di Florentino Pérez ed è da mesi che sta studiando questa operazione, che appunto ha questo doppio obiettivo, come dicevamo prima. Sicuramente nei prossime ore, comunque non prima di settimana prossima, questa negoziazione o si chiude o potrebbe anche saltare, nel senso che l'operazione non è ancora chiusa, insomma è una delle tante che si stanno studiando. Altre alternative potrebbe essere quella di far entrare semplicemente un socio nuovo e tirare avanti così. E quindi tempi strettissimi per l'operazione, che seguiremo anche noi. Grazie per ora, Michele Calcaterra, in collegamento con noi da Madrid. Grazie a voi. E vedo ancora molti messaggi sul commercio, insomma. Quelli come lei mi fanno pena, mia zia anziana diventa matta solo per comprare il pane, grazie a lei che è un buffone e ai suoi centri commerciali del, non posso dire tutta la parola, sì, non so quale responsabilità abbiamo noi per aver fatto chiudere i panifici, mi risulta che in alcuni casi siano vivi e vegeti, ci mancherebbe, io vado a fare la spesa tutti i giorni. Se poi si trovavano 5 panifici nell'arco di 100 metri, forse qualcuno era di troppo, visto che... E non capisco però perché dovrebbe esserci una sovrapposizione tra il centro commerciale grande che ha tutto tipo di clientela e il panificio, cioè la spesa quotidiana. Mi continua a sfuggire il legame. Alcuni scrivono invece: che tristezza, ormai valiamo solo come consumatori. No, io la ribalterei, magari in Italia valessimo come consumatori e come cittadini consumatori. Noi siamo il paese in cui i costi fissi di tutto, della benzina, delle assicurazioni, i cartelli su tutto, i cartelli sulle compagnie assicurative, sulle banche, tutto è fatto in modo tale da, diciamo, ignorare bellamente i diritti dei cittadini consumatori, se permettete. Comunque, traffico, e adesso, e poi restiamo sui consumatori, ma sui danni che crea anche alla nostra impresa la contraffazione, oltre che i rischi che porta ai consumatori. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni, due notizie appena battute dalle agenzie. Secondo la Banca Centrale Europea, le misure straordinarie per far uscire i paesi dalla crisi finanziaria dureranno anche lungo tutto il 2010, non è infatti prevista una exit strategy, una strategia di uscita dalla crisi, quindi tassi in rialzo, prima del 2011. Inizialmente si disse che la exit strategy, la strategia per uscire, per tornare alla normalità, si sarebbe avviata nel 2010, e questo fa, diciamo, sposta di un anno l'uscita ufficiale dalla crisi. E poi ancora, invece, il governo incontrerà le regioni, un flash di agenzia appena battuto, il ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto ha confermato che giovedì alle 15 vi sarà l'incontro Stato-Regioni con l'ordine del giorno alla manovra finanziaria. In quella sede sarà presente anche il ministro all'economia. Ma dicevo, parliamo adesso di tutela dei cittadini e dei consumatori per quello che riguarda la contraffazione. Domani, infatti, giornata nazionale della contraffazione promossa da Confindustria con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero degli Esteri, il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, numerosi sottosegretari presenti. Chiuderà i lavori Emma Arcegaglia, presidente di Confindustria, per porre l'attenzione su un danno economico che vale circa 7 miliardi solo sul mercato italiano, il mercato del falso, 5 miliardi mancati introiti per lo Stato, perdita di almeno 130.000 posti di lavoro. E poi c'è il tema della contraffazione alimentare, delicato anche perché va a colpire la salute. L'Italia è il paese che ha il maggior numero di prodotti alimentari contraffatti, imitati e contraffatti, vale 36 miliardi di euro. Nei primi sei mesi del 2010 la Guardia di Finanza ha sequestrato prodotti per 48 milioni di euro, di cui 28 milioni solo per il comparto moda. E poi alcune notizie di oggi: 10 milioni di piccoli elettrodomestici, pezzi contraffatti in sostanza, piccoli elettrodomestici, occhiali, CD e DVD, sequestrati la Guardia di Finanza di Milano in alcuni negozi di cinesi, zona via Sarpi soprattutto. I NAS, il nucleo di sofisticazione dei carabinieri, fanno notare come nei primi sei mesi siano sequestrati 1.750.000 confezioni di farmaci non a regola, il 20% illegale. Sempre ieri la Guardia di Finanza ha sequestrato 4 milioni di adesivi e articoli per cartoleria per un valore commerciale di 11 milioni di euro, ma soprattutto moltissimi giocattoli anche contraffatti. La buona notizia è che nasce invece il marchio di qualità per i ristoranti italiani all'estero, che sono le ambasciate italiane per quello che riguarda il settore agroalimentare nel mondo. Praticamente il progetto Ristoranti Italiani nel Mondo porterà una certificazione data a quei ristoratori che obbediranno a un decalogo sulla vera italianità dei prodotti, dal menù all'arredamento alla presenza di personale che parla italiana. Comunque, siamo in collegamento con il dottor Carlo Guglielmi, che è presidente della Commissione di Confindustria per la lotta alla contraffazione, nonché presidente di Indicam, che è l'istituto di Centromarca proprio per la lotta alla contraffazione di marchi e prodotti. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, domani, dicevo, giornata nazionale della contraffazione, della lotta alla contraffazione, promossa da Confindustria. C'è poi il Ministero dello Sviluppo Economico, vi saranno vari sottosegretari, Urso, Ronchi, Mantovano, quindi sviluppo economico, affari esteri, politiche comunitarie, interni, e il commissario Tajani. Chiuderà i lavori la Presidente Confindustria Marcegaglia. Che cosa vi ponete come primo obiettivo in questa giornata di lotta alla contraffazione? L'obiettivo è quello di rendere l'opinione pubblica nel suo insieme, quindi dal mondo industriale a quello sindacale, a quello dei lavoratori, a quello dei consumatori, consapevoli di che cosa voglia dire contraffare, perché contraffare significa fare contro il sistema fiscale, fare contro la proprietà intellettuale, fare contro la sicurezza del cittadino, fare contro, quindi un valore assolutamente negativo che va combattuto con tutte le nostre forze. Ricordo semplicemente una cosa: se noi riuscissimo a debellare la contraffazione, probabilmente avremmo fatto un passo avanti per debellare anche la crisi che ci attanaglia. E domani, quindi, sensibilizzare mi sembra l'obiettivo principale per quello che riguarda l'iniziativa. Poi a queste, chiaramente in maniera congiunta anche con le forze dell'ordine, perché ricordavamo la Guardia di Finanza, i Carabinieri. Senza quelle attività è difficile, però probabilmente bisognerà muoversi anche sul fronte internazionale, sul fronte degli accordi. Certamente, questo è fondamentale, lo andiamo dicendo da tempo, è necessario che qualsiasi accordo bilaterale con altri paesi viaggi sul tema della reciprocità su questo argomento. Non è accettabile, a nostro parere, nessun accordo se non c'è prima una accettazione dei paesi che partecipano all'accordo sui temi della lotta alla contraffazione. Questo è assolutamente indispensabile. Su questo fronte, poi, come iniziative, avete anche in mente una campagna ulteriore di sensibilizzazione. Io ricordo quella che, devo dire, che qualche efficacia la sortì dei calzaturieri italiani quando nel 2004-2005 erano invasi da prodotti anche cinesi, che ricordarono con una campagna pubblicitaria anche molto efficace: attenzione, il made in Italy nella scarpa vuol dire tante cose anche sulla salute, sulla qualità dei materiali, quant'altro, lasciando fuori l'agroalimentare, dove lì il rischio è addirittura di contraffazione nociva per la salute. Ma avete in mente anche una campagna vera e propria? Guardi, innanzitutto, come indica, ma abbiamo creato, organizzato un protocollo di una serie di regole che andrebbero in alcuni casi applicate e in altre realizzate, sempre a livello europeo. Per quanto riguarda la campagna, ce ne sono in previsione e devono riguardare peraltro non un settore ma tutti i settori. E insisto, riguardare non tanto la difesa del Made in Italy, che è assolutamente una priorità e una necessità, questo non c'è dubbio, ma ancor prima e ancor di più la lotta alla contraffazione, che purtroppo non ha patrie, ma ne ha tante di patrie. Un'ultima domanda che ci viene segnalata anche dai nostri ascoltatori al 349-238-6666. Va bene, ci mancherebbe, la lotta alla contraffazione, difendere il Made in Italy nell'agroalimentare, nella moda, nell'elettronica da consumo e calzaturiero, chi più ne ha più ne metta, però attenzione che spesso siamo noi i cinesi del mondo, cioè la contraffazione la si produce anche a Napoli, è in mano alla camorra, cioè non è una cosa solo che sono gli altri che copiano in maniera illegale i nostri prodotti, siamo noi stessi delle volte i primi artefici della contraffazione. Ma sono assolutamente d'accordo con le telefonate che vengono fatte, non è un caso che domani lanceremo un appello etico forte all'interno delle nostre associazioni affinché si possa fare su questo tema quello che con tanta forza, con tanta decisione è stato fatto dal Presidente di Confindustria Sicilia Lovello nei confronti dei rapporti con le attività malavitose. Bisogna fare la stessa cosa, bisogna espellere chi esercita questo tipo di attività, non è degno di stare all'interno della nostra comunità. Beh, in bocca al lupo domani e poi per i giorni e i mesi e gli anni a venire nella lotta alla contraffazione. Grazie quindi al Presidente della Commissione di Confindustria per la lotta alla contraffazione, nonché Presidente di Indicam, Carlo Guglielmi. Grazie a voi. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economy. Vi do un aggiornamento dall'America: il Dow Jones guadagna l'1%, l'euro è sempre relativamente forte, 1,2650, ma come chi ha seguito la puntata ieri dovrebbe già sapere, abbiamo introdotto questo passaggio di testimone tra il sottoscritto e Giuseppe Cruciani. Speriamo che non sia sempre più difficile. Allora, se ho ben capito, caro Sebastiano, i temi di politica languono, c'è quasi nulla. Non c'è quasi nulla. Beh, visto che Fitto però ha convocato le regioni per giovedì alle 15 per dirgli che la manovra resta invariata sostanzialmente. Però ti occuperai di un tema che noi spesso seguiamo, cioè come le imprese affrontano, le società affrontano la crisi, come riescono a motivare i loro dipendenti, a motivare anche la forza vendita, la forza lavoro, insomma, essere più competitivi con il caso, mi viene già da ridere, di Tecnocasa. Beh sì, insomma, mi occuperò di un tema, mi pare una parola grossa, però ospiteremo un tizio che per motivare la sua squadra ha pensato bene di fare attraversare un terreno con dei carboni ardenti sopra, e si sono ustionati in 9, e pare che Tecnocasa, insomma, non l'abbia presa troppo bene. Poi ci occuperemo anche di un caso particolare, pensate, sembra incredibile, il segretario della Lega Nord in Lombardia derubato in un campo rom, cioè va a fare un servizio in un campo rom e gli rubano soldi e cellulari. Quindi dal team building, come si chiama, come saranno anche gli ascoltatori che seguono Zotta, al team burning, potremmo dire, perché questa non è male. Ti ringrazio, te la puoi giocare per il tuo programma. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.